Fiducia o voto? Napolitano, serve senso di abilità. Maroni replica ancora a Saviano, mi paragona ad un boss, lo querelo. Crisi dell'Irlanda, il ministro britannico pronti ad aiutare Dublino, oggi se ne discute all'Ecofin. Rifiuti, incidenti nella notte a Bosco Reale, un arresto. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. La crisi politica dunque resta saldamente in primo piano. Berlusconi conferma la linea da seguire. Ha parlato proprio poco fa. E allora partiamo da qui in diretta con Elisabetta Fiorito. Sì, Anna Rita, i tempi della crisi sono già stabiliti, adesso il premier Silvio Berlusconi a stabilire il modo, il presidente del Consiglio è fiducioso dell'esito del voto alla Camera, anche se è contrariato da quanto sta avvenendo in Parlamento. Aprire la crisi è un atto irresponsabile e adesso sarebbe una iattura assoluta, dice il premier. Non si può pensare di mettere in crisi un governo che fino a qualche tempo fa era il più solido e meglio piazzato in Europa, ma Berlusconi avverte: se non ci sarà la fiducia andremo al voto, non credo che si possa arrivare ad un governo bis, abbiamo bisogno di un esecutivo solido e non possiamo contare su chi non garantisce il massimo di lealtà al programma votato dagli elettori. Riguardo poi alle incombenze del governo, il premier promette che domani sarà nominato il presidente della Consob, ma la domanda se questo sarà il vice ministro Giuseppe Vegas, Berlusconi ha spiegato di non poter dare ancora il nome. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta. Prima la finanziaria ed il capo dello Stato ha rivolto oggi un nuovo invito alle forze politiche. In diretta sempre da Roma Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è tornato a parlare di finanziaria, dunque il capo dello Stato giorni fa il suo appello alle forze politiche affinché si desse priorità alla sessione di bilancio, oggi la sua soddisfazione per quanto deciso da maggioranza ed opposizione accelerare proprio sulla legge di stabilità. Fatto questo importante, ha detto il Presidente della Repubblica, soprattutto per un paese come il nostro gravato da un pesante debito e con le incognite della crisi ancora presenti, ma ascoltiamo Napolitano. Considero molto importante il fatto che si sia dimostrato senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche decidendo di dare l'assoluta precedenza all'approvazione delle leggi di stabilità e di bilancio anche rispetto al dibattito politico che è aperto e che troverà successivamente modo di svilupparsi in Parlamento. E sul fronte dell'iter parlamentare della legge di stabilità, il momento in aula delle votazioni sugli emendamenti, il testo potrebbe ricevere il via libera già domani, passerà quindi al Senato. Tra le ultime novità vi è intanto la riformulazione del cosiddetto ecobonus con il recupero fiscale spalmato su 10 anni invece che su 5. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. Tra politica e televisione, con la polemica che ancora si trascina tra Roberto Saviano ed il ministro Maroni, dopo vieni via con me per le parole sulla Lega, sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta al nord. Perché la Lega tace, si chiede oggi dalle pagine di Repubblica Saviano. Maroni ha replicato di sentirsi incredulo, in particolare per un passaggio di quell'intervista, il paragone con il boss Schiavone. Confido in un refuso, ha detto il ministro, e chiedo quindi a Saviano di smentire riservandomi ogni iniziativa utile. Polemica non conclusa e che oggi approda al CDA della RAI. I contatti tra criminalità e Lega Nord comunque ci sono. Non hanno portato sino a questo momento ad avvisi di garanzia, ma si indaga da tempo, come scrive sul Sole 24 Ore in edicola oggi Roberto Galullo, che è in collegamento con noi. Roberto. Sì, buongiorno. Allora, sul Sole oggi io ricordo un episodio che tra le carte dell'inchiesta Il Crimine, che è scivolata il 13 luglio sull'asse Milano-Reggio Calabria. Tra quelle carte c'è anche il nome di un consigliere regionale della Lega Nord, Angelo Ciocca, è un pavese che è volato in consiglio regionale con quasi 19.000 voti. Ebbene, Ciocca, che non è indagato, è bene dirlo ancora, è fotografato in compagnia di Pino Neri, che è un presunto boss di 'Ndrangheta della Lombardia, anzi sarebbe in realtà addirittura il capo dei capi in Lombardia. Però a ben vedere, come scrivo oggi sul Sole, se noi andiamo ad avere un po' di memoria storica, ci dobbiamo ricordare che nel 2001 la Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, il 13 marzo segnatamente, archiviò la posizione di Licio Gelli e di altre 13 persone. Ebbene, in quelle carte che indagavano sui movimenti secessionistici del Sud ci sono dei pentiti di Cosa Nostra, ritenuti attendibili dagli stessi magistrati, che parlano di riunioni in cui erano presenti, oltre che a uomini dei movimenti secessionistici appoggiati da Cosa Nostra del Sud, anche uomini della Lega Nord. Anzi, quelle 150 pagine del decreto di archiviazione sono ricche di riferimenti alla Lega Nord, anche quelle non portarono ovviamente a nessun avviso di garanzia, a nessuno sbocco giudiziario, ma è interessante capire il fenomeno, vale a dire il fenomeno di chi fa politica che in un modo o nell'altro entra in contatto con la criminalità organizzata. Credo che questo fosse quello che in realtà voleva dire Roberto Saviano. Grazie a Roberto Galullo per questo chiarimento. E noi parliamo di economia. Costerebbe qualcosa come 100 miliardi di euro il piano internazionale Salva Irlanda ad ipotizzare questa cifra. Oggi è il Wall Street Journal del tema. Si discute all'Ecofin. E allora gli aggiornamenti con le reazioni anche delle piazze finanziarie con la nostra Deborah Rosciani. Deborah. Sì, buongiorno. Il quadro di contorno non cambia. Restano le inquietudini sulla situazione del debito sovrano in Europa. Irlanda e Portogallo in questo momento in cima alle preoccupazioni europee, e poi si aggiungono anche le tensioni per l'inflazione in Cina. Il governo cinese ha preannunciato misure per rallentare il surriscaldamento dell'economia appunto cinese, e tutto questo sta condizionando l'andamento dei mercati. Ieri in forte calo, oggi in tentativo di recupero ma abbastanza modesto rispetto ai cali di ieri. Più 0,5% Parigi, più 0,36% Francoforte. Sta fallendo il rimbalzo di Londra, che è sulla parità, mentre Milano si deve accontentare di un più 0,29%. Ma il quadro più preoccupante è quello sul mercato valutario, nel senso che a questo punto l'euro, con le tensioni di questi giorni, ha ripreso a scendere fortemente nei confronti delle altre divise. Sul dollaro quota adesso 1,34,88. Un paio di notizie da segnalarvi relative proprio ai paesi che sono in forte difficoltà. Stamattina in Portogallo c'è stata un'asta di titoli di Stato ad un anno, sono stati collocati per 750 milioni di euro, ma il tasso è balzato al 4,8%, per cui il tesoro portoghese deve riconoscere rendimenti molto più alti per poter naturalmente soddisfare le aste che organizza. Per cui anche questo è un nuovo test di difficoltà del mercato europeo. Anna Rita. Grazie alla nostra Deborah Rosciani, e siamo all'appuntamento con le aziende italiane che sono ripartite dopo la crisi. Sentiamo la storia di oggi. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Abbiamo fatto un meno 25% nel 2009 rispetto al 2008. Si dovrebbe riuscire a chiudere un 2010 con un più 20% rispetto al 2009. Lorenzo Biagini è contitolare insieme al padre di Toscana Spazzole, un'azienda che produce spazzole per l'industria, ossia attrezzi che vengono montati su macchinari, soprattutto nel settore tessile. Ha una sede a Prato e 15 dipendenti. Per uscire dalla crisi, Toscana Spazzole ha puntato sull'innovazione per migliorare il processo produttivo, ma anche sull'internazionalizzazione, come spiega ancora Biagini. Si è sviluppato le esportazioni, abbiamo dato un tocco di internazionalizzazione all'azienda, con il 2009 soprattutto, quando le cose non andavano bene, si è puntato su fiere all'estero, in paesi lontani, Cina, Brasile, la stessa Iran ci sta dando le buone soddisfazioni. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo all'estero. Il presidente iracheno Jalal Talabani ha detto oggi in un'intervista alla televisione francese che non firmerà l'ordine di esecuzione per Tareq Aziz, ex numero 2 del regime di Saddam Hussein, condannato a morte il mese scorso. Ha detto: non firmerò perché sono socialista, sono dalla parte di Tareq Aziz perché è un cristiano iracheno. Torniamo in Italia per la cronaca, ci spostiamo nel napoletano per l'emergenza rifiuti. Aumentano i rifiuti e aumenta la tensione sotto al Vesuvio. Mi ha circondato l'auto della polizia dove io ero seduto, hanno rotto il vetro posteriore dell'auto e poi c'è stato un arresto. Li chiama esagitati e parla di atteggiamento camorristico Gennaro Langella, sindaco di Bosco Reale, raccontando l'aggressione di ieri notte. Al Consiglio Comunale si discuteva la firma di un'ordinanza avvenuta oggi per vietare il passaggio dei camion dell'immondizia verso Cavasari. Anche qui, come a Napoli e in tutta la provincia, i cumuli di sacchetti crescono e cresce il rischio guerriglia, denuncia il primo cittadino, ricordando la mancata ratifica tuttora degli accordi su Cava Vitiello. Intorno al Vesuvio si procede sull'orlo di un baratro che rischia di essere peggiore dell'ultimo. Così tornano le navi con i rifiuti verso l'estero, tornano i roghi e ribolle l'agitazione. Non è mai finita l'emergenza. San Gennaro squaglia solo sangue, poi basta, ne faccio un miracolo. Da spazzatura per tutto, noi non ce la facciamo più. In mancanza di un piano veloce le prospettive sono ancora più cupe, perché è quasi piena anche l'unica discarica di Napoli, conferma l'assessore all'igiene Paolo Giacomelli. Chiaiano, nel mese di febbraio-marzo la discarica sarà completamente esaurita. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E domani il Consiglio dei Ministri ha in agenda proprio la questione rifiuti, dia segnali concreti, provvedimenti tangibili, altrimenti c'è il rischio di nuove proteste. Questo l'appello che ha lanciato il sindaco di Bosco Reale, Gennaro Langella, che avete sentito nel servizio della nostra Raffaella Calandra. Malattia mentale, andrebbe rivista la legge Basaglia? Era il tema del nostro sondaggio di oggi in bianco e nero. Avete risposto sì per l'84%, no per il 16%. Parliamo di cultura per chiudere questo primo blocco, torneremo a parlarne anche nel secondo. Nella settimana internazionale dei beni culturali e ambientali verrà presentata una ricerca che misura la capacità delle regioni e l'impatto sul PIL della cultura. Ecco le anticipazioni. La classifica riserva qualche sorpresa e porta la Lombardia in cima alla lista delle regioni italiane per potenziale dinamismo del settore culturale e creativo, seguita da Lazio, Emilia-Romagna e Toscana. Verrà presentato domani ufficialmente, nell'ambito di Florence 2010, l'indice che prende il nome dalla stessa manifestazione, il Florence Index, che analizza il settore della cultura e dei beni culturali in un modo nuovo e diverso, integrando fattori economici e di attrattiva. Elaborato dallo studio Ambrosetti, mette insieme il patrimonio culturale e ambientale, quello dell'industria culturale e dei media, la capacità di fare sistema, la creatività, cioè moda, design, ma anche ricerca applicata. A livello internazionale, il nostro paese si piazza in una posizione intermedia, forte dell'attrattività del Made in Italy, debole nel saper sfruttare il suo patrimonio. Eppure, spiega lo studio, un incremento di PIL di 100 euro nel settore culturale ne genera 249 per il sistema economico totale, di cui 134 al di fuori del settore, e per ogni due posti di lavoro nel settore culturale se ne genera un altro al di fuori, elementi in una fase come questa su cui riflettere. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Berlusconi sulla crisi, fiducia o voto? Napolitano, serve senso di responsabilità. Maroni replica ancora a Saviano, mi paragona ad un bossolo, querelo. La crisi dell'Irlanda, il ministro britannico pronti ad aiutare Dublino, oggi se ne discute all'Ecofin. Violenza sulle donne a Milano, record degli stupri denunciati, più di uno al giorno. Ancora una buona giornata da Annarita D'Ambrosio e dalla redazione. Sin qui i nostri titoli, ma noi apriamo parlando di maltempo con la situazione in Veneto. Doveva essere una giornata di tregua, vediamo se è così, in diretta con il nostro Paolo Usinabia. Paolo. Sì, doveva essere una giornata di tregua, ma si è sfiorata la tragedia stamane nel Bassanese, sempre in provincia di Vicenza. Dei grossi massi si sono infatti staccati da uno sperone e sono franati sulla strada Valzugana, la direttrice che collega Bassano a Trento, in territorio di Cismon del Grappa, nel Vicentino. Uno dei massi ha colpito un'auto, una Passat, nella quale si trovava una famiglia tedesca di 3 persone con una bambina. I 3 sono stati estratti e portati all'ospedale di Feltre, feriti fortunatamente in modo lieve. La strada è rimasta bloccata per ora e tuttora con una sola corsia aperta, si sono formate code per 7 km in entrambe le direzioni. Sul posto sono accorsi la Polstrada, Carabinieri ed ANAS. Le cause della frana sono sicuramente da attribuirsi al maltempo. Le rocce infatti sono molto friabili in quella zona e la strada è protetta ovunque da elementi di contenimento. Per ora da Vicenza è tutto. Grazie a Paolo Usinabia. La piena del Bacchiglione invece, che aveva messo ieri in allarme Vicenza e Padova, sta passando. Comunque eravamo più pronti, dice con un pizzico di polemica Antonio Dalla Pozza, assessore alla sicurezza di Vicenza. L'intervista è di Laura Bettini. La notte è passata tranquillamente, nel senso che il livello del fiume è andato progressivamente scendendo. Adesso non abbiamo situazioni di criticità in nessuno dei luoghi della città che erano stati monitorati. Abbiamo avuto qualche tracimazione, però insomma, tutto sommato siamo riusciti anche a gestirla meglio, forse dal punto di vista della prevenzione. In questo caso qui ci siamo forse un po' più arrangiati anche, non abbiamo badato troppo a bollettini che arrivavano ufficialmente che ci siamo attivati anche con una serie di altre reti di comunicazione. Abbiamo anche la fortuna di avere un centro idrico, noi di proprietà dell'azienda partecipata, che possiede un idrometro a monte della città che ci permette di avere un preavviso di circa 3 ore e mezzo sulla piena, e quindi questo ci ha anche permesso di salvaguardare le zone accompagnando la piena via via che passava per le varie zone della città. Cortei in molte città d'Italia questa mattina contro i tagli alla scuola pubblica. Il corteo degli studenti a Roma, partito dall'Università La Sapienza, ha deviato dal percorso ufficiale e all'altezza di Largo Argentina si sta dirigendo verso Piazza Montecitorio. Alcuni studenti in testa al corteo hanno degli scudi di gomma piuma, dunque potrebbero esserci momenti di tensione come si sono registrati nella mattinata di oggi a Milano e da Palermo. Sentiamo alcuni dei ragazzi che stanno appunto manifestando proprio in queste ore in tutta Italia, Sofia Sabatino della Rete degli Studenti. Allora sì, protestiamo perché oggi siamo in piazza insieme a tutti i compagni europei e mondiali per il diritto allo studio e per un libero accesso al sapere. Non possiamo accettare che nel nostro paese vengano tagliati i soldi alla scuola pubblica e vengano investiti i soldi nella scuola privata. L'altro giorno col maxiemendamento sono stati investiti 240 milioni di euro sulle scuole private. Questo vuol dire che non è vero che non ci sono i soldi per la scuola pubblica, ma che si vuole tagliare appositamente sulla scuola pubblica per non investire sul nostro futuro e sul nostro paese per uscire dalla crisi. Questo non possiamo accettarlo, noi siamo relegati a un futuro di fatto di precarietà, lavoro nero, sottopagati e senza diritti. Lo avete sentito nei titoli, spetta a Milano il primato di città con più violenze sessuali denunciate d'Italia. Ben 480 nel solo 2009, più di una al giorno. A riportarlo sono gli esperti dell'Associazione Ginecologi Ospedalieri nel loro convegno che si chiude proprio oggi a Milano. C'è soprattutto un dato che deve far riflettere: la metà delle donne violentate sono straniere stuprate da italiani. Cristina Carpinelli ha intervistato Alessandra Kusterman, responsabile del soccorso violenza sessuale dell'ospedale Mangiagalli di Milano. Su 314 casi arrivati dal 1 gennaio al 31 ottobre 2010, ben 179 erano state a opera di persone conosciute dalla vittima. La metà delle vittime che voi soccorrete sono donne straniere violentate, nel 23% dei casi da italiani. Infatti, circa la metà delle donne che arrivano al nostro centro e che lamentano una violenza sessuale sono donne straniere. Gli italiani sono i loro aggressori, i loro violentatori nel 23% dei casi, e molto spesso gli italiani nelle storie che ricorrono di queste donne sono coloro che hanno offerto un lavoro, oppure sono i figli delle persone a cui queste donne fanno da badanti. Queste donne sono donne clandestine, sono donne che hanno potuto poi comunque o hanno voluto denunciare? Allora, il 26% delle donne straniere che è venuta da noi e ha subito una violenza sessuale ha deciso di non denunciare. Violenza sulle donne, violenza in carcere con il caso Cucchi. C'è un'ultima registrazione della voce del detenuto morto nel carcere di Regina Coeli a Roma un anno fa. Risale all'udienza di convalida dell'arresto per spaccio e precederebbe il presunto pestaggio di cui sono accusate 3 guardie carcerarie. A pubblicarla è stato il sito internet abuondiritto.it. Eccone alcuni passaggi. Buongiorno, sono Cucchi Stefano, nato a Roma il 1 ottobre 1978. Sì. Sì, 78, mi scusi, non riesco a parlare tanto bene. Ha precedenti? Sì, non per droga, però altri precedenti. Ah, io nella prima cosa mi dichiaro tossicodipendente. Sì. Ho ancora la detenzione della tossicodipendenza e dell'epilessia, perché soffro di epilessia. Vabbè, poi c'ho pure la celiachia e altre forme di cose. E l'anemia. La Vespa è il simbolo della creatività italiana nel mondo e un esempio unico di immortalità nella storia del design industriale, lo sostiene Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio. E questo fenomeno simbolo del costume globale è protagonista di una mostra allestita fino al 15 gennaio prossimo presso il Museo Piaggio di Pontedera. L'esposizione è uno degli eventi della nona edizione della Settimana della Cultura d'Impresa e di Museo Impresa. Ma quando è nato il Museo della Piaggio? Adriana Fracchia l'ho chiesto alla responsabile delle relazioni esterne e degli affari istituzionali, Francesco Del Zio. Esiste da almeno 30 anni, è molto interessante perché naturalmente è la culla della Vespa e quindi nel Museo Piaggio si possono ammirare tutti i primi modelli di Vespa, a partire dall'invenzione di Corradino d'Ascanio, straordinaria, che derivò la Vespa in realtà dal prototipo di un aereo, fino ai modelli di Vespa che hanno animato la storia industriale dei decenni. Oggi il Museo Piaggio offre a tutti i visitatori la possibilità, appunto con la mostra tra la Vespa e il cinema, di osservare più di 200 tra locandine, film, fotografie di scena, tutto quello che il cinema mondiale ha prodotto, ha immaginato, ha creato sulla base del mito Vespa. Perché la Vespa è diventata un mito? Perché è un oggetto unico dal punto di vista del design, perché ha rappresentato e rappresenta ancora oggi la libertà, l'idea di evasione e anche, se vogliamo, la riscossa di un popolo come era l'Italia del dopoguerra, che appunto usciva da una situazione molto difficile e inventava qualcosa che sarebbe diventato poi appunto unico nel mondo. E adesso parliamo di una classifica del Financial Times, la classifica delle 50 donne più potenti al mondo, scelte in base alla durata e ai risultati ottenuti nel loro incarico. Nella classifica c'è Emma Marcegaglia. La più potente è ancora lei, indiana di nascita e di studi, cittadinanza americana e numero uno della PepsiCo da 4 anni. Per il Financial Times il primo posto è ancora suo, di Indra Nooyi, una costante visto che risultava al primo posto anche nella classifica di Fortune. Il secondo gradino è occupato da Andrea Jung, nata in Canada da genitori cinesi, CEO dell'Avon. Terza è la turca Güler Sabancı, a capo dell'impero di famiglia. La prima e unica italiana si incontra al posto numero 29, spunta Emma Marcegaglia, numero uno del gruppo Marcegaglia e numero uno di Confindustria, prima presidente donna nella storia di Viale dell'Astronomia. Come per altre nella lista, secondo il Financial Times, la migliore qualità manageriale di Emma è saper scegliere le persone giuste. Tornando alla classifica, le prime, sebbene siano sempre le stesse, faranno bene a non indugiare sugli allori, perché sono sempre più insidiate da giovani donne in carriera, che dopo anni di ostacoli e galvanizzate dai successi delle colleghe, si stanno facendo largo. Tra queste, occhio alle cinesi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo con il calcio. Stasera amichevole per l'Italia di Prandelli a Klagenfurt in Austria, affronta la Romania. Il numero 10 dalle spalle del reprobo e assente Cassano va su quelle del suo gemello, speriamo diverso, cioè Mario Balotelli. E la fascia di capitano sarà sul braccio di quel Giuseppe Rossi che ha conquistato la Spagna, ma non il cuore di Marcello Lippi che lo lasciò giù dall'aereo verso i mondiali del Sudafrica. Cerca giovani e piedi buoni Cesare Prandelli. Ecco allora che l'amichevole contro i romeni è l'occasione per varare una squadra magari un po' azzardata, ma a cui il bel gioco dovrebbe venir facile. Formazione Viviano. Chanton, Balzaretti, Bonucci, Ranocchia, Ledesma, Aquilani, Mauri, Diamanti, Balotelli e Rossi. In campo penso di poter vedere qualità. La vittoria servirebbe anche a far dimenticare la nottataccia genovese di Italia-Serbia dello scorso ottobre. A proposito, polizia in allerta per l'arrivo, nella Carinzia percorsa da fremiti xenofobi, di circa 200 estremisti di destra di Ultra Italia, che già 2 anni fa contro la Bulgaria a Sofia furono autori di incidenti e cori razzisti e fascisti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie regia a Fabio Cantadori. Vi lasciamo ad Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.